Allora, cosa rappresenta per te la musica? Questa è una domanda difficilissima, fatta così a bruciapelo. Allora, la musica per me rappresenta tanti aspetti, nel senso che col tempo è diventata una professione, quindi un lavoro, una responsabilità, diciamo così. Però io dico sempre che la musica è anche il mio hobby, continua sempre ad essere il mio passatempo, è il mio modo anche di, come dire, di divertirmi, di crescere anche culturalmente. Quindi diciamo che per me la musica è un po' tutto, perché sì, na è nata un po' come gioco, è nata un po' casualmente, però col tempo è diventata una cosa che, come dire, a 360 gradi, riempie le mie giornate quotidianamente. Il fatto di aver studiato tanti anni, comunque di continuare a studiare, mi, come dire, obbliga a percepire e a vivere la musica in maniera molto diversa rispetto alla gente, diciamo, comune, che non studia, che non suona. Ogni volta che sento un pezzo, che sento un gruppo, che parte anche una pubblicità con un jingle, io sono assolutamente condizionato. E quindi quello che penso, quello che vivo, è sempre, come dire, particolare. E niente, chiaramente oggi come oggi non potrei fare a meno della musica. Ogni tanto penso veramente a cosa potrei fare senza musica e non trovo mai. Diciamo così. Qual è la più grande problematica che secondo te caratterizza Nuoro e Inuresi? Allora, io trovo che una grande problematica si possa riscontrare nei giovani, diciamo nella fascia di età dai 19 ai 25-30 anni, innanzitutto per il fatto che Nuoro non è una città universitaria, anche se un pochino si prova a far credere il contrario, insomma non è che non esista appunto una scena universitaria, però non viene vissuta come in gran parte delle altre città, sia sarde che continentali. Quindi cosa accade? Che i giovani, se vogliono studiare, devono uscire da Nuoro. Io stesso, per potermi diplomare in conservatorio, sono dovuto andare a Sassari, che non è così distante, però sono rimasto lì 7 anni, ho costruito una piccola parte di vita lì, ho messo anche un po' le radici lì, diciamo, sono sempre legato a tanti aspetti di quella città. Quindi tornare a Nuoro sicuramente è un pochino fare un passo indietro. Io sono anche stato fortunato perché appena sono rientrato ho iniziato subito a lavorare e questa è una cosa che comunque aiuta i giovani. Il problema è che molti, molti giovani, io vedo della mia età o anche più giovani o anche più grandi, non hanno lavoro, non trovano lavoro, non trovano stimoli, non hanno prospettive e questo veramente si riscontra in tantissimi giovani, e io credo che questo sia un grosso problema. Perché se un ragazzo non può costruire la propria vita, perché non ha potuto magari coltivare gli interessi che voleva, o perché non è stato stimolato dalla città stessa, questa città un po' annichilisce anche le menti creative. Non è un caso che i nuoresi siano ovunque nel mondo, non è un modo di dire, cioè è così. E molta gente che ha voluto fare carriera, che ha voluto seguire i suoi sogni, se n'è dovuta andare, è dovuta rimanere fuori. Poi tutti più o meno tornano prima o poi, ma spesso vuol dire fare un passo indietro. Sicuramente Nuoro è una città vivibilissima, con un sacco di belle caratteristiche, un po' a portata d'umano, ti permette di vivere anche magari con una famiglia in maniera tranquilla, serena, è un po' tutto vicino, ci si conosce, ci si aiuta, non si è indifferenti, ecco, questo è il bello di Nuoro, che non è troppo paese, neanche città, quindi ha degli aspetti molto positivi, ma i giovani non hanno neanche punti di aggregazione, non hanno posti dove potersi esprimere, dove potersi confrontare, questo magari se prima avveniva nelle piazze, oggi deve avvenire nei bar, molto sostanzialmente. E i giovani frequentano i bar oppure non frequentano. E questo è una sconfitta perché il bar ti costringe anche a doverti comportare in un certo modo, ad avere certi limiti, cosa che magari invece in piazza o in centri magari più liberi, insomma, che non sono commerciali, diciamo così, ci si conosce, ci si confronta e si possono ottenere solo cose positive. Ecco. Hai detto che alcuni tornano. Tu perché sei tornato? Allora, diciamo che in realtà non è che sono proprio tornato, ma come ho concluso il mio percorso di studi, chiaramente ho insomma, fatto una pausa da tutto un lavoro e sono tornato chiaramente qui a Nuoro a vivere con i miei genitori. Sono stato abbastanza fortunato perché ho subito ricevuto una proposta di lavoro a scuola, proprio come insegnante di pianoforte. Chiaramente l'ho colta subito. E diciamo che oggi mi ritrovo qui, come dire, anche magari un po' incastrato, ma in realtà non è proprio così, perché è un lavoro che mi piace fare, che amo fare, questo sarà l'ottavo anno. E quindi sì, non è che sono mai tornato, forse non ho mai avuto né cercato in maniera, come dire, importante, quello di, il fatto magari di uscire, di trovare anche lavoro fuori. Io sono contento alla fine di lavorare qui nella mia città natale, con tutti i pregi e difetti che ci sono. Non escludo magari la possibilità di cambiare idea, di intraprendere nuovi percorsi lavorativi, magari non solo quello dell'insegnamento, che comunque ti obbliga, giustamente, quotidianamente, a vivere una città, che in questo caso, nel mio caso, appunto, è Nuoro. Anche se il mio vero desiderio è che, come dico sempre, è che possa essere la mia musica a viaggiare per me. Ecco, quello che forse il mio desiderio è quello, magari sì, di viaggiare, di spostarmi, di avere delle esperienze fuori, ma che siano relegate alla musica, quindi che si possa parlare di concerti o masterclass, come può essere anche un'intervista, un qualunque cosa che mi possa, sì, portare fuori. Ma, no, ma che non mi obblighi a rimanere fuori. Siccome la musica oggi più che mai è veramente uno strumento di comunicazione internazionale, universale, io credo e spero insomma, che ci siano delle esperienze che mi portino fuori, che mi portino fuori a suonare, a conoscere altri musicisti, ad avere altre esperienze. Senza mai dimenticarmi da dove provengo e senza mai neanche, come dire, senza mai lasciare abbandonare questa città che comunque mi sta a cuore. Da maestro di musica, che futuro vedi per le nuove generazioni? Allora, è un po' difficile nella mia situazione rispondere a questa domanda. Uno, perché non ho molta esperienza, diciamo, con l'insegnamento, quindi non ho potuto veramente vedere qual è la situazione, diciamo, attuale dei giovanissimi, anche perché insegno alle scuole medie, quindi stiamo parlando di 10-12 anni. E anche dato dal fatto che il pianoforte lo insegno, come dire, a tu per tu con gli allievi, non ho classi, penso, da 20 alunni, quindi è difficile vedere una situazione un po' più ampia, un po' più generale. Diciamo che vedo forse di più il prospetto, il futuro del singolo. Però, siccome è una domanda che in realtà mi fanno spesso, e me la fanno un po' in maniera provocatoria, perché dicono, i giovani d'oggi sono rimbecilliti col cellulare, con queste cose. Io dico che non è assolutamente vero, che oltretutto non sono così interessati al cellulare, non sono così coinvolti dal cellulare quanto lo siamo noi, che per noi è ancora una novità, è ancora uno strumento, come dire, innovativo e quindi sempre accattivante. Loro sono nati col cellulare, quindi il cellulare non gliene frega nulla, cioè il cellulare ce l'hanno. Non gli danno veramente tanta importanza, siamo noi che gli diamo tanta importanza, quindi noi crediamo che loro lo usino come cioè in maniera troppo, come dire, appunto problematica, quasi come una dipendenza. Per carità, è anche vero che molti genitori danno il cellulare al bambino e lo lasciano così un po' abbandonato a se stesso. Quindi, se un bambino sta sempre solo a usare il cellulare, è perché non ha altro da fare. Perché i miei allievi, quando arrivano, e arrivano mezz'ora prima, assieme a tutti gli altri allievi delle altre classi di violino, di flauto, prendono il pallone e si mettono a giocare. E il cellulare non lo cagano. Scusate la parola, però è proprio così. Quindi, non li trovo assolutamente succubi di una tecnologia. Non la sanno però usare, però vabbè, sono piccolini, quindi non la sfruttano magari veramente a loro vantaggio, ma solo un po' in maniera ludica, quindi sì, un po' di videogiochi e fesserie sui social, i pochi che ce l'hanno. Chiaramente poi si capita sempre che caschino su tutti i problemi che possa causare un dispositivo tale, cioè a fine cyberbullismo. Anche fatto in maniera involontaria, insomma, hai varie cose che chiaramente è uno strumento molto potente, lo dai in mano a un bambino, è chiaro che possa fare danno, quindi a volte quello è più che condanniamo, il fatto che è uno strumento estremamente potente, loro non hanno assolutamente la consapevolezza. Però ora mi sto dilagando un pochino con la questione cellulare, in loro vedo assolutamente tanta, insomma, vedo tanta intelligenza. Vedo tanta forza, cioè gli allievi che vengono a studiare sono tutte persone capacissime, ho avuto anche più bravi di me, forte. E io alla loro età non suonavo così bene, poi magari è una percezione, magari così, magari non è così, non lo so. Fatto sta che non ci vedo assolutamente nulla di male nel loro futuro. Chiaro che il futuro non dipende neanche solo da loro, quindi il discorso può essere molto più complesso di così. Però diciamo che nel mio piccolo io ho delle buone speranze, ecco.